Bibbia Martini, primo libro delle cronache, 1 CR 15. Preparato il tabernacolo, vien condotta con gran caparato l'arca di Dio a Gerusalemme, accompagnandola tutto Israele, ed esercitando i sacerdoti, e leviti il loro ministero, ed ufficio. Michal schernisce David, che ballava dinanzi all'arca vestito di bisso, e di un epod di lino. Egli si fabbricò delle case nella città di David, ed edificò un luogo per l'arca di Dio, e formòle un tabernacolo. Allora disse David, non è lecito che l'arca di Dio sia portata da altri, che dai leviti eletti dal Signore a portarla, e ad essere suoi ministri in perpetuo. E convocò tutto Israele a Gerusalemme per far portare l'arca di Dio al suo luogo, che egli le aveva preparato. E convocò anche i figliuoli di Aronne, e i leviti. Del figliuoli di Cat, era capo Uriel, e avea seco 120 dei suoi fratelli. Del figliuoli di Merari, era capo Asaia, e con lui 220 dei suoi fratelli. Del figliuoli di Gersom, capo era Joel, e con lui 130 dei suoi fratelli. Del figliuoli di Elisafan, era capo Semeia, e avea seco 200 fratelli. Del figliuoli di Hebron, era capo Eliei, e avea seco 80 fratelli. Del figliuoli di Oziel, capo era Minadab, e con lui 112 fratelli. E David chiamò a sé Sadoc, e Abiatar sacerdoti, e i leviti, Uriel, Asaia, Joel, Semeia, Eliei, e Aminadab, e disse loro, voi, che siete i capi delle famiglie levitiche, purificatevi insieme con vostri fratelli, e portate l'arca del Signore Dio d'Israele al luogo preparato per essa, affinché come l'altra volta il Signore ci gastigò, perché voi non eravate presenti, così non avvenisse ora, se alcuna cosa non permessa si facesse da noi. Si purificarono adunque i sacerdoti, e i leviti, per portar l'arca del Signore Dio d'Israele. E portarono l'arca di Dio il figliuolo di Levi, conforme aveva ordinato Mosè secondo la parola del Signore, sopra le loro spalle, sulle stanghe. E David ordinò ai capi dei Leviti, che scegliessero tra i loro fratelli dei cantori, e suonatori di musicali strumenti, viene a dire, di nabli, lire, e cimbali, affinché risuonassero fino al cielo i suoni di letizia. E quelli scelsero dei Leviti. Eman figliuolo di Joel, e dei fratelli di lui, Asaf figliuolo di Barachia, e dei figliuoli di Merari, e i loro fratelli, Itan figliuoli di Casaia, e con essi i loro fratelli, e nel secondo ordine Zaccaria, e Ben, e Jeziel, e Semiramot, e Jael, e Ani, Eliab, e Banaia, e Maasia, e Matatia, ed Elifalu, e Macenia, e Obededom, e Jeiel, che erano portinei. E i cantori Eman, Asaf, ed Itan suonavano i cimbali di bronzo. E Zaccaria, e Oziel, e Semiramot, e Jael, e Ani, ed Eliab, e Maasia, e Banaia cantavano inni misteriosi sui nabli. E Matatia, ed Elifalu, e Macenia, e Obededom, e Jeiel, e Ozazia cantavano inni di vittoria sulle cetere a 8 corde. E Conenia principe dei Leviti era quello, che presiedeva al canto, per dare il tuono, però che era molto intelligente. E Barachia, ed Elcana facevano da portinage dell'arca. E Sebenia, e Josafat, e Natanael, e Amasai, e Zaccaria, e Banaia, ed Eliezer sacerdoti suonavan le trombe dinanzi all'arca di Dio, e Obededom, e Geia erano usceri dell'arca. Davide adunque, e tutti i signori di Israele, e i tribuni andarono a trasportare l'arca del testamento del Signore dalla casa di Obededom con gran festa. E perché Dio aveva dato aiuto ai Leviti, che portavano l'arca del testamento del Signore, furono immolati 7 tori, e 7 arieti. Davide poi era vestito di una veste lunga di bisso, come anche tutti i Leviti, che portavano l'arca, e i cantori. E Conenia maestro del coro dei cantori, ma David aveva ancora un epod di lino. E tutto Israele accompagnava l'arca del testamento del Signore con voci di giubilo, e tra i suoni di buccine, e di trombe, e di cimbali, e di nabli, e di cetere. E quando l'arca del testamento del Signore fu arrivata sino alla città di David, Micol figliuola di Saul mirando da una finestra, vide il re David, che saltava, e ballava, e in cuor suo lo disprezzò. Note, 15,1, e formolle un tabernacolo. L'antico tabernacolo fatto da Mosè rimase a Gabaon. 15,2, non è lecito che l'arca e ci Davide attribuì il disordine nato nell'occasione del trasporto dell'arca all'averla fatta portare non sulle spalle dei sacerdoti, come era ordinato, Num. 4, 5. 15. Ma sopra un carro. 15,8. Del figliuoli di Elisafam era capo Semeia. Elisafam era figliuolo di Oziel figliuolo di Cat, Exod. V18, 22,15,9. De figliuoli di Ebron e ci Ebron era figliuolo di Cat, Exod 4, 18. 15,12. Purificatevi e ci col lavare le vostre vesti e con la continenza. 15,20. Cantavano inni misteriosi su Gnabli. Lo strumento detto dagli ebrei Nabel secondo la significazione di questa voce, che vale oltre, è stato creduto una cornamusa, altri però credono che fosse strumento di legno a corda. 15,24. Obededom e Geia erano osceri dell'arca. Andavano accanto all'arca come stanno gli osceri di guardia alla porta della camera dei principi. 15,26. E perché Dio aveva dato aiuto? Perché Dio aveva conceduto a Cleviti di portare l'arca dalla casa di Obededom fino alla cittadella di Sion, senza che avvenisse loro nessun triste accidente, furon perciò immolati in ringraziamento 7 tori. 15,27. Davide era vestito di una lunga veste di bisso. Il bisso era una specie di finissima e preziosissima seta, che si cavava da un pesce, il quale si pesca in tutta la Grecia e sulle costiere da Costantinopoli sino all'Egitto. Questo pesce di Cesipinna Magna, e la seta, di cui si parla, serve a tenerlo attaccato al suo guscio e al fondo del mare. L'abbondanza della seta di Persia, propagata di poi in varie parti di Europa, fece sì che cominciò a tenersi poco conto di quella dei pesci penna, la quale ha un bellissimo e lucentissimo color d'oro.